100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. La Grecia catalizza ancora l'attenzione di tutti, mantiene un certo nervosismo sui mercati, anche perché settimana scorsa in certi momenti è sembrato davvero che lo scenario di una possibile uscita dall'euro si concretizzasse duramente. Il roadshow europeo del ministro delle finanze Varoufakis non ha trovato tutte le sponde che auspicava e questo complica le trattative con gli organismi internazionali sulla riorganizzazione del debito ellenico, anche se c'è la disponibilità da parte del Fondo Monetario Internazionale a sostenere ancora finanziariamente Atene. La crisi greca questa settimana sarà il piatto principale dei lavori dell'Eurogruppo di mercoledì 11 febbraio. Venerdì abbiamo avuto invece il dato sulla disoccupazione americana di gennaio che ha confermato la fase favorevole per l'economia a stelle strisce. Il mese scorso sono stati creati 257.000 posti di lavoro, meglio dei 237.000 attesi dal mercato, con la novità particolarmente interessante per l'analisi economica che i nuovi posti di lavoro sono accompagnati da una crescita dei salari annua a livello massimo da fine 2013. Andiamo ai temi da seguire questa settimana, ancora la coda di qualche trimestrale, i dati sul PIL europeo, negli Stati Uniti le vendite al dettaglio che arriveranno giovedì, un altro test importante sui consumi, la fiducia dei consumatori del Michigan arriverà venerdì, nel resto del mondo domani abbiamo l'inflazione cinese e la riunione della banca centrale svedese giovedì. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Ci sono i re del Marocco e della Giordania, le star del cinema e del rock, modelle e stilisti e ovviamente anche molti sportivi. Sono 100.000 nomi, di cui oltre 7.000 italiani, tutti nella lista dei titolari di conti segreti presso la banca HSBC Private Bank di Ginevra. In totale il tesoro sottratto al fisco ammonterebbe, o almeno così si dice, a 180 miliardi di euro. Ma da dove arrivano questi dati e che cosa rappresentano? Si tratta di un'inchiesta giornalistica svolta a livello mondiale sull'evasione fiscale, con l'obiettivo di fare chiarezza sui mezzi utilizzati per nascondere il denaro al proprio paese e non pagare le tasse. L'elenco è contenuto nei file rubati da Hervé Falciani, ingegnere informatico ex dipendente di HSBC, e dati già in possesso delle autorità fiscali. Ora però i nomi finiscono sui giornali di tutto il mondo e a fugare i dubbi sui comportamenti non proprio corretti di molti personaggi noti e meno noti non basta la cautela del consorzio giornalistico, che ha precisato che la presenza di alcuni nomi nelle liste non significa automaticamente che abbiano commesso reati. Per ora c'è la conferma che la filiale svizzera del colosso bancario britannico era diventata negli anni una vera e propria cassaforte mondiale degli evasori, e il tormentone non è finito perché ora si parla di una nuova lista di 121.000 nomi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.